Canto 28 della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto 28. Vago già di cercar dentro ed intorno la divina foresta spessa e viva agli occhi temperava il nuovo giorno, senza più aspettar lasciai la riva, prendendo la campagna lento, lento, su per lo suol che d'ogni parte oliva. Un'aura dolce, senza mutamento avere in sé, mi feria per la fronte, non di più colpo che soave vento. Per cui le fronde, tremolando pronte, tutte quante piegavano la parte u la prima ombra gitta al santo monte. Non però dal loro esser dritto sparte tanto che gli augelletti per le cime lasciasser d'operare ogni lor arte, ma con piena letizia l'ore prime cantando ricevieno intra le foglie che tenevan bordone alle sue rime. Tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta in sul lito di chiassi, quand'eo lo scirocco fuor ti scioglie. Già m'avean trasportato i lenti passi dentro all'antica selva tanto ch'io non potea rivedere ond'io m'entrassi. Ed ecco, il più andar mi tolse un rio che in ver sinistra, con sue picciole onde, piegava l'erba che in sulla ripa uscio. Tutte l'acque che son di qua più monde parriano avere in sé mistura alcuna verso di quella che nulla nasconde. Avvegna che si muova bruna bruna sotto l'ombra perpetua che mai raggiar non lascia sole, ivi né luna. Copii ristetti e con gli occhi passai di là dal fiumicel per ammirare la gran variazione de freschi mai. E là m'apparve, sì com'egli appare subitamente cosa che disvia per meraviglia tutt'altro pensare, una donna soletta che si gia cantando e discegliendo fior da fiore ond'era pinta tutta la sua via. De, bella donna, che raggi d'amore ti scaldi, s'io vo credere a sembianti che sogliono essere testimon del cuore, vegna ti voglia di trarreti avanti, diss'io a lei, verso questa riviera, tanto ch'io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar dov'è, qual era, Proserpina nel tempo che perdette la madre lei, ed ella primavera. Come si volge con le piante strette a terra ed intra sé, donna che balli, e piede innanzi piede appena mette, volsesi in su vermigli ed in su gialli fioretti verso me, non altrimenti che vergine che gli occhi onesti avalli, e fece i prieghi miei esser contenti, sia pressando sé che il dolce suono veniva a me co suoi intendimenti. Tosto che fu là dove l'erbe sono bagnate già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia Venere trafitta dal figlio, fuor di tutto suo costume. Ella ridea dall'altra riva dritta, traendo più color con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta. Tre passi ci facea al fiume lontani, ma elle sponto, l'ave passò serse, ancora frena tutti orgogli umani, più odio da Leandro non sofferse per mareggiare intra Sesto ed Abido, che quel da me perché allor non s'aperse. Voi siete nuovi. E forse perché io rido, cominciò ella, in questo luogo eletto all'umana natura per suo nido, maravigliando tienvi alcun sospetto. Ma luce rende il salmo delectasti, che puote disnebbiar vostro intelletto. E tu, che sei dinanzi e mi pregasti, di s'altro vuoi udir ch'io venni presta ad ogni tua quistion tanto che basti. L'acqua, diss'io, e il suon della foresta impugnan dentro a me novella fede di cosa che udì contraria a questa. Ond'ella, io dicerò come procede per sua cagion ciò che ammirar ti face e purgherò la nebbia che ti fiede. Lo sommo bene, che solo a sé piace, fece l'uom buono a bene e questo loco diede per arra lui d'eterna pace. Per sua diffalta qui dimorò poco. Per sua diffalta in pianto ed in affanno cambiò onesto riso e dolce giuoco, perché il turbar che sotto da sé fanno l'esalazion dell'acqua e della terra, che quanto posson dietro al calor vanno, all'uomo non facesse alcuna guerra, questo monte salì over lo ciel tanto e libero è da indi ove si serra. Or, perché in circuito tutto quanto l'aere si volge con la prima volta, se non gli è rotto il cerchio d'alcun canto, in questa altezza, che tutta è disciolta nell'aere vivo, tal moto percuote fa suonar la selva perché folta. E la percossa pianta tanto puote che della sua virtute l'aura impregna e quella poi, girando intorno, scuote. E l'altra terra, secondo che degna per sé o per suo ciel, concepe figlia di diverse virtù, diverse legna. Non parrebbe di là poi maraviglia, udito questo, quando alcuna pianta senza seme palese vi s'appiglia. E saper dei che la campagna santa ove tu sei, d'ogni semenza è piena, e frutto in sé che di là non si schianta. L'acqua che vedi non surge di vena che ristori vapor che gel converta, come fiume che acquista e perde lena, ma esce di fontana salda e certa, che tanto dal voler di Dio riprende quant'ella versa da due parti aperta. Da questa parte, con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra, d'ogni ben fatto la rende. Quinci, lete, così, dall'altro lato, e uno è si chiama, e non ad opera, se quinci e quindi, pria non è gustato. A tutt'altri sapori esso è di sopra, e avvegna ch'assai possa esser sazia la sete tua, perch'io più non ti scuopra. Darotti un corollario ancor per grazia. Ne credo che il mio dirti sia men caro, se oltre promission teco si spazia. Quelli, canticamente poetaro l'età dell'oro e suo stato felice, forse in Parnaso e sto loco sognaro. Qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre ed ogni frutto. Nettare è questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi addietro allora tutto, a miei poeti, e vidi che con riso udito avea l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna tornai il viso. Fine del canto 28.